RadioTube Social Network. E ci siamo in diretta per la seconda ora del nostro RadioTube, che come sempre da Social Village si trasforma in Social Network. Cosa vuol dire? Vabbè, insomma, nella prima ora parliamo un po' più di spettacoli, facciamo un po' il cartellone delle cose da non perdere. Abbiamo avuto ospiti le attrici di Gomorra. Lo sapevo che qualcuno avrebbe scritto le polemiche infangate Napoli, ma ragazzi, ma stiamo parlando di una fiction, peraltro lo abbiamo abbondantemente spiegato, abbiamo abbondantemente fatto questa riflessione con le due attrici. Andate a recuperarla in podcast, e chiedo di recuperarla anche in podcast la prima ora all'ascoltatrice che chiede: ah, ma Manuela Agnelli ha parlato di X Factor. Sì, però adesso non è che possiamo riascoltarla, la trovi online. Emanuela Agnelli ha parlato anche della sua esperienza X Factor. Allora, seconda ora, mentre la prima è quella un po' dedicata al cartellone, nella seconda ora andiamo a parlare un po' di attualità della rete e dalla rete, insomma andiamo a sentire quali sono tutti i video più condivisi, andiamo un po' a capire cosa bolle in pentola nella rete, nella televisione. E lo facciamo sempre con dei co-conduttori d'eccezione. Io sono molto contenta di avere questa settimana Ride, perché siamo anche amici. Io l'ho rapito da Torino, sono molto contenta. Gli ho detto: la prima volta che puoi venire un sabato a Milano, devi venire in studio con me da Torino. E quindi potete immaginare, un giornalista della stampa, lui è un mago del video, si occupa anche di spettacoli. Infatti era con me l'altro giorno dagli After Hours, Roberto Pavanello. Ciao Roberto. Buonasera Marta, buonasera allora ai nostri ascoltatori, radio ascoltatori, e fai bene ad essere orgogliosa di avermi qua. Lo so. Tra l'altro l'abbiamo appena segnalato anche a Daniele Bellasio, che ci presentò un dì. Pensa, Daniele Bellasio ci presentò e adesso sono qua a fargli le scarpe. Esatto, esattamente così. Allora, partiamo con un tema un po' tosto, visto che ne abbiamo sentito parlare nel giornale radio. Attualità vista attraverso la rete. Riascoltiamo un brevissimo estratto. Avete sentito qualche secondo nel GR? Ecco qua. Post di ieri su Facebook. Perché chiedete silenzio? Allora, proprio a proposito di questo argomento, già arriva un messaggio appunto a proposito di Gomorra: non state infangando Napoli, state esaltando la mafia. Non mi pare che Gomorra esalti la mafia, tutt'altro, ma insomma, vabbè, è più facile scrivere un WhatsApp al volo che fare una riflessione come abbiamo cercato di farla appunto con le attrici di Gomorra. Scusate la polemica, ma è veramente difficile. Allora, ne abbiamo parlato anche con Anna Migliorati nel giornale radio delle 17, la morte di Totò Riina. Avete sentito in questo appostamento dei giornalisti, c'era il legale che diceva: non state facendo il vostro mestiere. Roberto, fa un po' parte anche del mestiere dei giornalisti, quello di cercare delle reazioni, delle, insomma, mi sembra una parte fondamentale, essenziale. Io per fortuna non ho mai fatto quel tipo di lavoro lì, ovvero non sono mai andato io a confrontarmi e chiedere con conto a persone che hanno commesso dei reati, oppure a parenti di vittime di chi ha commesso dei reati. Ed è una delle parti più difficili del nostro mestiere. È molto difficile, molto difficile. Diverso andare a chiedere a una persona che ha avuto un lutto, una perdita, come si sente, perché in questo caso è diverso, perché insomma la storia è molto diversa. Però c'è un aspetto interessante che mi piacerebbe così cercare di capire insieme a te. La prima domanda che abbiamo sentito dal giornalista è stata quel post su Facebook, perché in rete tanti messaggi ovviamente di condanna a Totò Riina, ma anche tanti messaggi di cordoglio. E a un certo punto cosa è successo? Che il marito della signora Riina, che abbiamo appena sentito, ha scritto che era stata segnalata la sua foto del profilo, un nastro a lutto, e che Facebook aveva eliminato la foto con tutte le condoglianze. Allora, delicatissimo questo argomento, Roberto. Facebook si è mosso perché molti non hanno accettato che ci si muovesse sui social per fare le condoglianze per la morte di Totò Riina. Per una volta tanto mi pongo dalla parte di chi censura. Nel senso che se tu sei stato Totò Riina, se tu hai compiuto quello che hai compiuto, ti sei messo fuori dalla società. Nel momento in cui tu ti sei messo fuori dalla società, ti sei anche autoescluso dalle regole sociali. allo stesso modo sui social, paghi lo stesso scotto. Io capisco che la figlia è la figlia e quindi sì, è in lutto. È difficile da condividere, così, ma è comprensibile. Sì. Detto ciò, l'esibizione del lutto non mi sta bene. Concordo. Quindi per cui che Facebook una volta tanto abbia forse l'algoritmo funzionato in maniera quasi accettabile, posso accettarlo. Chi si dispiace per la morte di Irina non mi interessa. Non rientra tra le questioni di cui voglio occuparmi. Sappiamo cosa ha fatto, la storia e la giustizia l'hanno già condannato, non c'è più, e va bene, andiamo avanti. Allora, ti posso far sorridere un po', Roberto? Perché ti sento un po' raffreddato. Perché purtroppo sono i mali di stagione. Sono un anziano che accusa i mali di stagione. Ma no, probabilmente ho anche vissuto male questo debutto in radio. Probabilmente il mio fisico non ha reagito nella maniera che mi aspettavo. Mi è venuto mal di gola e raffreddore. Allora, abbiamo tutti i consigli per te, Roberto. Tutti i consigli per te per un video che è stato molto condiviso questa settimana. Sentiamo. Sera, questo è un breve filmato per suggerirvi quello che c'è da fare nei cambi di stagione. Non è raro che qualcuno si possa sentire stanco, spossato, un po' anche di cattivo umore, quindi vi suggerisco una piccola ricetta che sono: si prendono praticamente due arance tagliate a metà, una carota, una mela, un mandarino, una piccola gamba di sedano e un pezzettino di zenzero fresco. Prendete tutta questa frutta che avete preparato, la buttate nelle immondizie, vi aprite un prosecco, così, ecco qua, e state sicuramente meglio. Quindi, nessun problema per i cambi di stagione. Nessun problema per i cambi di stagione. Allora, c'erano in regia Filippo Aureggi e dietro Miriam Lucchetti, che sta facendo la redazione oggi, che stavano ascoltando attenti, no? Facevano una qual mela è la e facevano mentalmente, facevano col viso, e poi avete capito qual è la ricetta, buttate via tutto. Io la metterò in atto già questa sera. Devo dire che abitualmente è un po' una ricetta di vita che mi piace così utilizzare così in generale, anche quando c'è bel tempo. Allora, è Nicola Menin della cantina La Fuita di Val d'Obbiadene, e devo dire che il suo consiglio è stato molto condiviso. Sì, noi l'abbiamo subito messo anche sul nostro sito, anche perché io, avendo origini venete, sento che parla al cuore. Posso capirlo. Allora, invece vorrei anche il momento dell'indignazione questa settimana. Il momento dell'indignazione. Cribio. Torniamo a X Factor, perché è successa una cosa gravissima. Salverei tutti e tre, ma per ora io dico Rita. Rita Bellanza. Rita, la prossima settimana ritornerà qui, vi farà ascoltare il suo inedito. Fate un applauso a Rita Bellanza, che tornerà giovedì prossimo sul palco di X Factor. Fate un altro grande applauso anche per il quinto giudice aggiunto di questa serata, Gianni Morandi, che è stato con noi. Gianni, prendere i fischi credo non sia mai capitato, ma non sono ovviamente per Gianni Morandi cantante, ma per il difficile ruolo del giudice. Cioè, ragazzi, fischiare Gianni Morandi, adesso non c'è più religione, non si può, mi rifiuto, non si può fischiare Gianni Morandi. L'abbiamo sentito alle 15 in 140 caratteri, mi faccio un po' di pubblicità, trovate il podcast sul sito di Radio 24. No, si può. Ma si come può. Si In può? Questo caso si può. Ma no, non si può fischiare Gianni Morandi. Commise errore, e commettendo errore si fa. No. Massimo rispetto per il Gianni nazionale, ma in questo caso non lo so, secondo Rita me Rita Bellanza Gianni era chiaramente l'altra sera la più impresentabile di quelle allora, che erano allora sul ti palco. Faccio un'altra domanda prima di dare la viabilità. Com'è questa cosa che tutti i giornali online, quando sono iniziati i provini, pubblicavano solo le foto di questa Rita, che era la più brava di tutti, che avrebbe vinto, e adesso tutti indignati? Ma no, ma non è vero. Vabbè, allora abbiamo capito che proprio la competenza musicale di Roberto Pavanello mi viene meno davanti alla presenza fisica della signorina. Allora, 17:15, 30 secondi, viabilità, e poi parleremo di alcuni eroi della televisione, non solo. RadioTube Social Network. Buongiorno Massimo Giletti, ti dico buongiorno perché sono le 6 del mattino e non so quando tu manderai questo video. Non ho avuto neanche il tempo di farmi la barba, di truccarmi, di mettere un copriocchiaie, di aggiustarmi i capelli, di fare qualche cosa, schiacciarmi qualche brufolo, niente per essere più presentabile in occasione di questa tua nuova avventura sulla 7. Purtroppo la RAI non ha capito. La RAI, Radio Televisione Italiana, non hanno capito e ti hanno lasciato andare così. Meno male che quel gran volpone di Cairo era lì pronto subito a carpire le tue qualità e metterle a servizio di questa rete, la 7. Chi è l'eroe della settimana televisiva del quale poi si è parlato più di tutti in rete? Vabbè, ovviamente Fiorello sempre, ma è tornato Massimo Giletti. Vogliamo sentire com'è tornato? Massimo Giletti è tornato così. Se io avessi accettato di fare varietà, non solo avrei tradito me stesso, ma avrei tradito anche voi, che in tutti questi anni siete stati gli unici padroni dell'arena, quelli veri, 4 milioni di persone. Io non so se sono uscito da questa tempesta, perché le lacrime che ho versato durante la conferenza stampa mi fanno capire che questa ferita è lunga. Però siccome credo, io sono convinto di una cosa, che in fondo al tunnel c'è sempre una luce e si arriva in un mondo migliore. Non è facile pensare di andar via e portarsi dietro la malinconia. Non è facile pensare di andar via e portarsi dietro la malinconia. Si è commosso, ha rischiato grosso, ha vinto. Io questa settimana volevo dei maschi alfa piemontesi. Uno ce l'ho in studio ed è Roberto Pavanello e l'altro ce l'abbiamo collegato al telefono. Buonasera Massimo Giletti. Buon pomeriggio, ciao a tutti. Che meraviglia. Buonasera. Massimo, ecco. Allora come ci si sente? Quanti chili in meno dentro, così emotivamente, da una settimana? Beh, per quello che ho vissuto tutta quest'estate, per le fatiche, le tensioni, anche i tradimenti, no? Tanta gente che si è girata dall'altra parte, aver fatto il record storico sulla 7 di ascolto. È un'emozione che è difficile da trasferire in parole. Chi mi sta vicino sa che io mentre parlavo ho fatto fatica a trattenere le lacrime. Si sentiva quando... Ma non potevo permetterlo, perché poi qualche critico avrebbe fantasticato. Avrebbe detto. Però, che avevi fatto apposta? Ma sai, c'è sempre un'acidità in chi scrive a volte, che noi siamo persone normali, con tutti, con i nostri limiti, difetti, eccetera, e ti assicuro, vedere dei ragazzi che hanno lasciato la RAI per seguire uno come me, un comandante che va sempre conto corrente, vederli lì vicino a me, per me vederli dietro le telecamere è un momento di grandissima emozione. Massimo, la mattina dopo, tutti ovviamente eravamo lì ad aspettare i dati d'ascolto. Io apro Twitter e compulso ossessivamente alla ricerca del primo che li twitta. Non sono arrivati mica subito i dati d'ascolto quella mattina, e quindi in rete subito tutti hanno cominciato a dire: ah, c'è sotto qualcosa, questi dati non escono. Tu come l'hai vissuta l'attesa di quei dati? L'ho vissuta malissimo, perché già arrivi dopo 4 ore, una maratona di 4 ore e mezza di trasmissione, eccetera, poi il giorno dopo un'altra tortura. Mi sembra un percorso all'infinito, ma dove sono? Un incubo quasi. Poi sai, è vero che i dati d'ascolto escono tardi a volte, ma quel lunedì qualcosa di molto particolare è successo, perché ore spostati, continuamente gli orari di uscita. Io sono sempre stato uno tranquillo e sereno, però ovviamente ho messo a prova le emozioni. Ma c'era sotto qualcosa secondo te con questo? Saranno altri che vanno a dire. Io non ho voglia di fare dietrologia. Visto che Cairo ha rispolverato una vecchia frase di Giulio Andreotti, no? Ah, certo. Beh, mare, certo. Insomma, è bello, ma una volta non ci si sbaglia. Però quello che risponde poi alla fine è che noi abbiamo fatto quello di caso. Viva Dio, qualcuno ci ha aiutati. Ma Massimo, sono Roberto Pavanello, ciao. Ciao Roberto. Al netto del successo, che è stato una bomba, non hai pensato di aver in qualche modo goduto dell'assenza del turno di campionato? Polemico, sì, ma... Pavanello, no, no, polemico, ma il Pavanello. Ma chi osserva, no, non è un obiettivo dai dati. In questo mondo i dati e i programmi hanno un successo rispetto a quello che c'è in campo in quel momento. Devo dire che un dato è ovvio, infatti questa settimana noi pagheremo dazio, cioè perderemo sicuramente dei punti. Però ecco, aver dimostrato che la scelta può essere illuminata e andare oltre il 13%, come abbiamo fatto noi in alcuni punti, vuol dire che tutto sommato, nonostante copra solo il 70% del territorio nazionale, è un record pazzesco, quindi anche calcio non calcio, però il numero è stato fatto, anche gli altri non avevano calcio, i numeri non ne hanno fatti. Certo. Ma domani, visto... domani a Marassi vinciamo? E queste sono le cose importanti. No, no, ma infatti posso capire. È molto decisiva, poi tutto il calcio è sempre decisivo, ma domani per mille motivi, soprattutto mentali, una partita difficilissima, la Sampdoria è il top, quindi non lo so, ci vuole una Super Juve, quello che non abbiamo sempre visto. Massimo, domani vi occuperete di Ostia, è così? Ostia, mafia o criminalità? Sì. Sì, allora, sì, anche. È arrivato poco fa un messaggio di un ascoltatore al 349-238-6666 che ci ha criticato perché, vabbè, abbiamo parlato della morte di Torina, noi abbiamo detto che è comprensibile il lutto dei familiari, non abbiamo detto niente di più. Allora dice, il vostro perbenismo è stucchevole, come, così come da quando da due settimane state coprendo di fango un posto come Ostia, cittadina bellissima, certo con i suoi problemi, che ha un potenziale enorme, che aspetta solo di essere sfruttato e che voi certo non aiutate coprendola di fango, scrive Alessandro appunto da Ostia. Quanto è delicato occuparsi di questi temi? Ma si è invocata la dignità sulla morte di Totorina, l'hanno invocata tanti. Io vorrei sapere quale dignità aveva Totorina quando faceva saltare in aria dei ragazzi giovanissimi insieme a Falcone, insieme a Borsellino. Quanta dignità aveva quando si decideva di sciogliere nell'acido un bambino di 9 anni. Io ho rispetto per le morti, perché la morte è sempre qualcosa di duro da accettare da parte di tutti, i parenti, eccetera, ma la dignità non può avere lo stesso peso per persone di quel tipo che non si sono mai pentite e che hanno sempre ribadito, anche negli ultimi mesi di carcere, no al pentimento, no al confronto e no a qualsiasi apertura. Ecco, se n'è andato con i suoi segreti, questo mi dispiace molto. Sì, se n'è andato con i suoi segreti, questo è il pericolo più grave. Speravo parlasse, ma capi mafia non parlano mai. Poi su Ostia non si può dipingere una città come mafia totalmente, ma ci sono dei problemi seri in quella parte di città, come ci sono problemi seri in parte delle nostre città italiane. Ora, vogliamo far finta di nulla? Sono d'accordo con te. Massimo, tu li segui i social, vedi cosa scrivono le persone di te? No, perché poi io corro, lavoro un sacco e evito di leggere per proprio non farmi influenzare, amareggiare o esaltare. Capisco che il mondo social è fondamentale, ma io corro, sono uno che scrive, insomma, a mano, quindi sono lontano da questo sistema. Sei uno che scrive a mano davvero? Sì, ancora. No, davvero? Cioè, ma prendi appunti a mano? Sì, assolutamente. Beh. Io ho il mio taccuino e scrivo tutto, quindi... Ma non c'è nulla di male, ecco. No, ma mi stupisce, ma è bello, bellissimo. Uomo d'altri tempi, l'abbiamo detto, questi torinesi pieni di fascia. No, è una cosa che mi piace molto. Domani, Roberto, a che ora gioca quella alle squadra 15. Di cui siete voi molto appassionati? Ah, beh, quindi non c'è nessun problema. No, non Massimo, quindi domani prima guardi la partita e poi fai la trasmissione. Cosa fai? Riesci a guardarla la partita? Sì, no, quella si riesce a fare. La Juventus è l'unica donna che non ho mai tradito nella vita. Deve essere proprio in contemporanea per tradirla. Purtroppo mi sa che quest'anno qualche volta accaderà. Vabbè. Si guarda, si legge, si riguarda, si mette a posto tutto, ma c'è tempo. Va bene. Massimo, noi siamo molto curiosi e ovviamente questa gara di ascolti, questa sovrapposizione, a me piace molto perché è un bel segno. Gara, no, però, per noi. Farei notare che domani c'è Juventus-Sampdoria e il competitor ti fa Sampdoria. Bellissimo! Ma che bello! Chissà se poi... Molto bello. No, ma per noi è una gara, per noi giornalisti che vi seguiamo. Però secondo me è un segno di grande vitalità della TV generalista e di vivacità dell'offerta, che è sempre una bella cosa. Però ripeto, vorrei avere i budget posizione veramente ammiraglia, nel senso che con ragione è una rete importante. Ha dei budget pazzeschi, Fabio Fazio. Cioè, io metto la scialuppa e vado avanti, ma la benzina mi serve qualche litro, ecco, non ho un transatlantico. Quindi quando paragoni Fazio a Cidetti, fai un percorso che ci sta giornalistico, ma andiamo, come diceva prima, ai contenuti, alle monete, al budget. Mettiamo il budget mio al budget loro, allora vedi che non c'è contenuto, non c'è possibilità di guerra, una guerriglia che puoi fare ogni tanto. Ma... Però la necessità aguzza l'ingegno. Ah, quello anche è vero. Ma sì, però al guardare può avere mezzi importanti. Io non riesco ad avere ospiti, ve lo chiedete. Vabbè. Veniamo io e Marta. Veniamo noi. Possiamo fare quello che vuoi. Massimo, davvero un in bocca al lupo enorme. Io te lo faccio però io ho l'affetto, quello che è importante, che vorrei dire questo. Io ringrazio davvero tutti gli italiani che sono stati con me, perché non è scontato che uno che se ne vada, uno che va via da un'azienda per motivi veri, no? Non per il soldi o per altro, ma se ne va via per un motivo vero. Essere seguito con l'affetto da tutti è qualcosa che ci deve far pensare, cioè siamo sempre critici nei nostri confronti. Beh, insomma, quel pubblico merita, secondo me, un rispetto maggiore, perché è andato a cercarmi, ha scanalato, perché sa che quella non era una cosa qualsiasi, ma era una battaglia per... Io la uso questa parola in cui molti... per la libertà di informazione, non per la normalizzazione dell'informazione. Sono molto, molto, molto d'accordo. Massimo, in bocca al lupo per la trasmissione. Qualcun Grazie. Altro ti farà un in bocca al lupo per un'altra cosa di domani. Vabbè, ma io non si è capito che non l'ho seguita tanto questa cosa. Attendiamo il novantesimo. Anche il 93. Grazie, in bocca al lupo a Ciao. Domani sera, Buon Massimo lavoro. Angeletti. Grazie, Ciao. Massimo. Ciao. Noi ci ritroviamo tra poco ancora con il nostro RadioTube Social Network. Quando sono uscito da Orfeo ho detto, ragazzi, qua vi dovete cercare un posto, perché io non so quello che succederà. E loro mi hanno detto, stiamo con te. Scusate, non è passato. Logica, spazio, tempo. Module Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... RadioTube Social Network. Ed è l'ultima mezz'ora del nostro pomeriggio in diretta insieme a Radio 24. Allora, ragazzi, abbiamo questa co-conduzione con Passa troppo in fretta il tempo. Con Roberto Pavanello della Stampa. Roberto, va un po' meglio il raffreddore, perché non mi sono accorta. Prima ho alzato l'aria condizionata, ti ho tipo... Ho dovuto sventrare un orso e infilarmici dentro, dal freddo faceva qui dentro. Esatto, adesso arrivano i messaggi di protesta degli animalisti. Stava scherzando. Metafora. Non c'era nessun orso in studio, ok? Allora, abbiamo parlato di calcio con Massimo Giletti, ero sicura che due torinesi juventini sarebbero scivolati giustamente sul calcio, mi ha fatto piacere sentire Massimo Giletti, perché non c'è niente da fare, è stato uno dei personaggi della settimana, in rete hanno parlato tutti di lui, però che dire, questa settimana la rete si è scatenata su un'altra sfida, che non era... È successo qualcosa? No, mi pare di aver sentito... Allora, io lunedì sera sono andata al concerto di Charles Aznavour. Che è ancora serio. Vivo questo. Ma ragazzi, ma ballava, 93 anni e ballava. Ero agli Arcimboldi a Milano, e però c'era una partita lunedì sera. E così ogni tanto, con un occhiettino, guardavo su Twitter per capire un po' come stava andando. Mi pare piuttosto... Io sono stupefatto che il Vaticano sia ancora in piedi. No, dai, non dirlo così. Ma non si dicono queste cose. Vabbè che sei veneto e in Veneti fanno quelle ovviamente cose diciamo lì. Che non è stata una serata proprio di rilassatezza e spensieratezza quella di lunedì sera. Allora, andiamo a sentire come ha reagito Gigi Buffon. Mi ha veramente spezzato il cuore sentire vedere questo video che vi mostrerò alla radio. Dispiace per non aver, non per me, dispiace perché per il movimento, dispiace perché abbiamo fallito un qualcosa che anche a livello sociale poteva essere veramente importante e di conseguenza niente, questo è l'unico rammarico che ho. Ragazzi, la rete si è fermata. No, nel senso che la rete tutti non i social... si è, io direi che la rete non si è gonfiata. Non si... Ecco, che è ok, che è peggio, perché in questo caso mi pare di ricordarmi che a calcio vincono quelli che fanno più gol. Così dovrebbe essere. Così dovrebbe essere. Vabbè, hanno insomma... fatti uno. Sì. Su un'autorete sfortunatissima del povero Daniele De Rossi. A proposito, Daniele De Rossi, che è stato un gran signore, perché anche lì il giorno dopo si è venuto a sapere tramite un giocatore della Svezia, Lustig, che è salito sul pullman della nazionale svedese e ha chiesto scusa agli avversari perché lo stadio Meazza di San Siro ha fischiato l'inno nazionale svedese. E poi ha augurato di disputare un buon mondiale ai ragazzi, ai vichinghi. Che figo De Rossi, un altro vichingo. Potrebbero però prenderlo nella Svezia così per abbinarlo, che così vediamo giocare anche De Rossi l'anno prossimo. Sempre il mio calcio per signorine. Mm-hmm. Allora, molto divertenti i tweet di quella nota azienda di mobili. Che ha così suggerito una panchina, visto che sì, abbiamo dei problemi sulla panchina italiana. Allora, coinvolgiamo un amico per parlare di calcio, visto che non è proprio il mio campo, perché me ne sto un po' disinteressando da qualche anno. Non ti fidavi abbastanza di me. Non è vero, perché volevo, com'è che si dice, the more the merrier, più siamo, meglio stiamo. Torniamo a ospitare dopo un bel po' di tempo, nel frattempo lui è diventato direttore di GQ Italia, ma resta sempre il fondatore di Rivista 11, Giuseppe De Bellis. Ciao Giuseppe. Ciao Marta, ciao Roberto. Ciao Giuseppe. Eccolo qua. Allora, ciao. Tu come l'hai vissuta lunedì? Malissimo. Malissimo, perché ero a San Siro e ho sofferto da giornalista, da tifoso, da italiano. Cioè, mettetecele tutte. Da cliente di IKEA. Sì, anche diciamo da potenziale fruitore delle numerose campagne pubblicitarie che ci sarebbero state durante il mondiale, che non ci saranno. Questa è una tragedia per tutti i giornali. Sì, perché le due battute quindi... su Twitter più diffuse erano: non ci saranno le promozioni dei televisori, sì, la prossima estate. Ma non è una battuta, è proprio così. È vero. E poi l'avete fatto perché non vi restituivamo le matitine all'IKEA. Queste erano le due battute che io ho visto sui social poi network. Poi c'erano le offerte dei diritti TV per i mondiali a 19,90. Anche questa era bella, vabbè. Ah, però ha ragione Giuseppe, per noi dell'informazione, per noi dei giornali, l'assenza del mondiale è un danno economico non da poco. Certo. Perché comunque, e non solo per noi, cioè il PIL ne risentirà in questo paese. E noi nel nostro piccolo comunque avremo meno ricarichi pubblicitari, avremo meno copie vendute, meno utenti sui siti. È una brutta batosta. È una brutta batosta. Allora, ieri sera, sempre IKEA, la citiamo perché insomma si è capito di chi stiamo parlando, ha twittato la foto di un vichingone seduto su una panchina ancora con scritto 90 minuti per fare pace. Evidentemente i social di IKEA cominciano a temere che ci possa essere un contrattempo. Io sedendomi su una panchina di fianco a un vichingo per 90 minuti farei pace? Lascia stare, io avrei qualche idea. Giuseppe... Guarda, posso interrompervi, perché in realtà questa cosa durerà chiaramente, anzi forse è già finita, perché la potenza di quell'azienda, soprattutto nei confronti diciamo del mercato femminile, che è dominante anche nelle famiglie, sarà totalmente, schiaccerà completamente anche ogni velleità diciamo di eventuali ritorsioni nei confronti dell'azienda, quindi possono stare tranquilli. Sono molto belle le campagne social, ma hanno vinto la partita, hanno vinto anche in termini commerciali. Allora, c'è un altro personaggio che oggi è su tutte le pagine online dei quotidiani e su tutti i social, io l'ho trovato condiviso in qualche modo. Allora, c'è un Ventura molto particolare, perché ovviamente ne ha approfittato subito Maurizio Crozza. Sono dispiaciuto, ci credo, soprattutto per la figura che hanno fatto i ragazzi della Nazionale, De Rossi e Buffon come allenatori. No. Hanno dimostrato tutta la loro inesperienza. No, ma guardi che non... Sono giovani, impareranno. No, guardi che però l'allenatore era lei. Sì, era lei. Infatti mi pareva strano come spettatore che avessi un posto così buono. Certo. Addirittura a bordo campo. Ma infatti, no, era l'allenatore. Non è male questa. Luigi, tu che sei un innamorato di una squadra del sud... che si chiama Bari, e hai avuto Ventura su quella panchina e non ha fatto male. Ti saresti mai immaginato innanzitutto di avere un allenatore del Bari CT della nazionale? Allora, ti correggo perché ne ho avuti due. Chi è stato l'altro? Il precedente, e Conte è stato... Ah, è vero, Conte è stato su quella panchina. No, non me lo sarei aspettato e sinceramente, adesso facile dirlo oggi, ma proprio chi l'ha avuto sa che era difficile aspettarselo, perché per quanto abbia fatto giocare bene nelle sue squadre, per quanto soprattutto con le squadre piccole ha fatto buone cose, però ha sempre, purtroppo, dico anche per esperienza personale, ha diciamo non ha tenuta, nel senso che fa molto bene soprattutto la fine stagione e poi comincia a perdersi, non regge la pressione. Beh, in questo caso devo dire che ahimè è stata evidente a tutti, e la battuta di Crozza è chiaramente divertentissima, se non fosse drammaticamente vera, nel senso che è vero che lui nell'ultima parte di questa esperienza infelice non è stato di fatto l'allenatore della squadra, e quindi lui giustamente da comico la mette sul ridere, noi ridiamo molto meno, onestà. Ma ti vediamo ancora, ti sentiamo ancora molto abbacchiato, Giuseppe. C'è anche l'amico Adriano Attus che l'ha appena scritto su Twitter: il direttore Giude Bellis è ancora sotto un treno. Sì, ha ragione, Adriano ha davvero ragione, perché sì. Potremmo dire che è giù. È giù, De Bellis. Devo dirvi, io prevedo un'estate tristissima. Ok, però vediamo, l'estate è triste, Giuseppe, ma come ripartiamo? Da dove si va? Ah, sì, perché perché adesso bisogna ricostruire. Allegri ha detto, ma forse tra qualche anno, però per ora ma no. Sai, adesso sicuramente non fino a giugno. Chi può esserci? Di Biagio come traghettatore, come si dice? Questo Ancelotti di cui sento parlare? Ma oggi Branchini ha detto a Radio DJ, scusate, ho detto una parola, vabbè, parola DJ. Siamo vicini, dai, che sono praticamente pochi centinaia di metri. Secondo lui non andrà Ancelotti. Qual è la tua opinione, Giuseppe? Allora, anch'io penso che non sarà lui, perché in questo momento è un posto molto difficile da accettare e bisogna avere onestamente poco mercato al momento per accettarlo, nel senso che prima di accettare una panchina così complicata bisognerà capire che cosa accadrà in federazione, quindi adesso lunedì c'è un consiglio federale fondamentale, non dovrebbe cambiare molto, ed è evidente che se non cambia molto alcuni allenatori, soprattutto i più, diciamo, quelli con maggior caratura internazionale, potrebbero avere difficoltà ad accettare una panchina, se è una panchina full time, perché poi c'è anche questa ipotesi mai praticata in Italia, in alcuni altri paesi invece è stata praticata anche con successo, di un CT part time, ovvero di un CT che lavora tutto l'anno con un club, e in questo caso dovrebbe essere necessariamente un club europeo, straniero, non italiano, esatto, perché sennò figurati la guerra. Esatto. Ma possiamo dire che però Giuseppe, il CT è in realtà solo la punta dell'iceberg, il problema non è solo il CT. Esiste un sistema calcio da ripensare in questo paese? Sì, sicuramente sì, però bisogna anche dire così, evitiamo di sembrare soltanto demoralizzati e ci diamo anche un po' di grinta per il futuro. È vero anche che negli ultimi due anni le nazionali giovanili, Under 21 esclusa, perché l'Under 21 ha avuto tante volte dei risultati ottimi, però le nazionali giovanili hanno fatto risultati che mai nella storia del calcio italiano si erano verificati con tale costanza. E quindi se dobbiamo trovare una chiave di lettura positiva per il futuro, sicuramente c'è che la base della federazione che sta lavorando sui giovani ha fatto passi in avanti. La punta dell'iceberg di cui parlavi tu è una punta dell'iceberg fondamentale, perché in realtà i risultati dicono che questa è la peggior batosta della storia del calcio italiano, perché non è paragonabile a quella di 59 anni fa, e quindi è evidente che il movimento ne ha delle conseguenze negative nella sua complessità, però è vero anche che la sconfitta di una gestione tecnica soprattutto. Ragazzi, intanto mi stanno arrivando dei meme molto divertenti, grazie a Stefania Carini che stiamo mandando via WhatsApp, mandameli anche su Twitter così li retweeto a tutti gli ascoltatori di Radio 24, tutti i meme che sono circolati questa settimana su Italia-Svezia. Grazie al direttore Giuseppe De Bellis, grazie alla prossima. Grazie, allora, ciao. Noi diamo la linea alla viabilità con un pochino di ritardo perché poi dobbiamo concederci un momento di sogno. Tra poco. Radio Tube Social Network. A me ha detto che familiarizzavo troppo con gli umani. E lei adesso che fa il duetto canoro con Carmine? È che sta allegra! Sì! Sono allegra perché Francesca ha lasciato Ares. Questo vuol dire che Ambresse, quella scardella di Tritone, se ne tornerà da Iara, così noi ce ne possiamo tornare di sotto. Tu vatti a fare questo bagnetto, mica ti vorrei trasformare in una Alicetta davanti al nostro ospite. Mamma, ma Iara dov'è? È andata di sotto, sta guardando il mare. Starà pianificando i prossimi 500 anni. Allora, sono gli ultimi minuti del nostro RadioTube insieme a Roberto Pavanello, che dalla stampa è planato fin qua, anzi, diciamo che ha proprio nuotato, perché l'altra sera gli ho chiesto... Famoso mare di Torino. Certo, l'altra sera gli ho chiesto, potevi nuotare nel Po, l'altra sera gli ho chiesto, ma cosa stai facendo? Sto guardando Sirene, perché Roberto Pavanello, dillo che sei un appassionato di Sirene, la serie... Sono un appassionato delle sirene nella serie. Ah vabbè, ognuno la guarda per i suoi motivi. Sirene, la serie, è una serie che sta andando molto bene su Rai 1 e sono molto contenta di cercare di capire un po' questo fenomeno, perché piacciono molto, soprattutto alle ragazze e ai ragazzi. In rete io trovo solo immagini di sirene, vabbè anche gli unicorni, ma soprattutto le sirene. E abbiamo in collegamento Monica Rametta, che è sceneggiatrice della serie TV, ma anche autrice di Sirene, una avventura terrestre edito da Salani. Monica, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, perché Monica a Roberto Pavanello, ma soprattutto ai ragazzi, piacciono tanto le sirene? Beh, io spero, perché abbiamo fatto una bella serie. Quello sì, ma perché lui si vergogna di dire che sta lì sul divanino con la copertina a guardare le serie. È sicuramente divertente. Poi c'è Luca che fa il napoletano in maniera divertente. Esatto, è tutta una roba tra piemontesi. E perché poi è una storia, è una commedia sulla diversità, perché poi comunque noi raccontiamo, è il racconto di queste quattro sirene, per l'appunto, che escono dal mare e che vanno nella città di Napoli a cercare il Tritone che si è dileguato, perché nel fondo marino le cose sono molto diverse, cioè c'è praticamente una civiltà è un attimo assolutamente vessato. Matriarcale, e Il Tritone è scappato per questa ragione, allora, se n'è andata sulla terra. C'è Filippo Aureggi in regia che mi ha scritto un cartello con scritto: che graziose ragazze sono le attrici della serie. L'ha scritto in un altro modo, ma confermo. Intendeva dire quello. C'è una cosa molto particolare però che avviene in Sirene. Vi siete inventati una serie nella serie? Sì, esatto. Cioè, non è mai successo? La serie è colpi di cuore, colpi di cuore. Le sirene si guardano in televisione, sì, esatto. C'è una piccola soap che ci siamo inventati e di cui le sirene sono assolutamente appassionatissime. Ed è tutte e quattro, diciamo, che sono quattro sirene di varietà. C'è la sirena madre, che è la più grande, diciamo, fino alla sirena bimba, che ha 6 anni. E tutti e quattro appunto seguono colpi di cuore. La domanda è: ma ci sarà un Sirene 2, un Sirene 3? Ma speriamo proprio di sì. Adesso perché... non si so dire, però diciamo che la domanda ci avrà una risposta all'ultima puntata, perché poi abbiamo un bel finale. Bisogna capire. Ma io penso che i ragazzini nelle storie delle sirene, dei tritoni, ci vedano anche qualcosa di importante. Sì, penso di sì, spero di sì, anche perché per esempio il libro da cui appunto che ho scritto, che è praticamente tratto dalla serie, quindi è proprio il punto di vista di una di queste sirene, cioè la sirena adolescente, che è una sirena di 16 anni e che per la prima volta mette piede sulla terra, quindi veramente tutte le cose che scopre, no? Tutte le cose che scopre da ragazzina, quindi da adolescente, dal telefonino al motorino, a cose diciamo futili, però anche a cose invece meno futili. Beh, come per esempio la scuola e quindi tutti i rapporti difficili, ecco, che possono, il bullismo a scuola, che esatto, il bullismo, cioè tutto quello che può avere a che fare insomma con la scuola e con la vita in classe per una ragazza che viene da un altro mondo. Come si sentono spesso gli adolescenti. Come si sentono spesso gli adolescenti. Esattamente. Che meraviglia. Grazie Monica. So che devi andare a prendere un treno, quindi ti lasciamo correre a prendere il treno. Va bene, vi ringrazio. Porta i miei saluti molto. Alle sirene. Ah vabbè, disinteressati proprio. Monica Rametta, autrice di Sirene, un'avventura terrestre per Salani, sceneggiatrice della serie TV Rai Sirene, ma anche di questa Colpi di cuore, la fiction che trovate in rete. Grazie. Un po' il trio Monica. Solenghi, Lopez, Marchesini. Sì, un po' sì. Grazie a Monica Rametta. Grazie, arrivederci. Allora, Roberto, abbiamo pochi secondi per salutare, per ringraziare. Fammi intanto ringraziare Filippo Auregi in regia, Filippo e i suoi cartelli. Miriam Lucchetti che questa volta ci ha assistito in studio perché Cristian Goldoni è andato a vedere il derby, e a Roma a vedere il derby. Aiuto. E soprattutto grazie a Roberto Pavanello che grazie dalla stampa, nuotando come un tritone sul fisico fino a qui e soprattutto raffreddato, ma ce l'hai fatta fino alla fine. Grazie Roberto. Perché noi sabaudi Lo sappiamo, voi sabaudi ce la potete fare sempre. Noi ci ritroviamo sabato prossimo ancora per RadioTube Social Village, RadioTube Social Network, dalle 16 in poi su Radio 24. Al prossimo sabato.